Allorché era felicemente coniugata con Albano, Romina Power, che nonostante il cognome non è mai stato uno slogan per alcuna categoria di oppressi, soleva dire che, essendo ella figlia di separati, era per così dire immunizzata da questo genere di pericoli. La sua teoria propendeva per il salto generazionale, semmai nella sua famiglia le separazioni avrebbero potuto riguardare i suoi figli. In questi giorni, invece, anche a colpi di interviste sui giornali, sta discutendo il suo divorzio. Subito dopo la partita di domenica scorsa, l'allenatore del Milan, Fatih Terim, è volato in Turchia, dove lo aspettavano alcuni rappresentanti della classe dirigente turca. L'avevano assunto per un paio d'ore in cambio di $50.000 affinché l'imperatore, e questo è il nomignolo di modestia con cui Terim ama essere chiamato, affinché l'imperatore spiegasse loro come ottenere quel successo le cui chiavi erano giunte nelle sue abili mani. Non aveva ancora finito la conferenza sul proprio successo che qualcuno gli ha spiegato che nel frattempo era stato licenziato. Non so se almeno uno dei suoi benefattori abbia pensato in quel momento che in Turchia c'erano anche altre occasioni per spendere proficuamente $50.000, ma so che ogni tanto, per i casi irridenti di una sorte che non è mai disgiunta dalle contraddizioni di chi, in quanto ricco, si crede al riparo vita natural durante, ogni tanto qualcuno viene trovato con le mani in quello stesso sacco in cui sta per essere rinchiuso.